quando hanno aperto la cella era già tardi, perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè s'è impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Nel buio Michè se n'è andato sapendo che a te non poteva mai dire che aveva ammazzato perché amava te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato la porta gli devono aprire. Seppure Michè non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. Domani alle 3 nella fossa comune cadrà senza il prete e la messa, perché di un suicida non hanno pietà. Domani alle 3 nella terra bagnata sarà e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.